Friuli nel mondo. 134esima trasmissione dedicata agli immigrati. Nuovi motivi popolari. Eccoci di nuovo all'appuntamento con il Festival della Canzone Friulana. Ormai è entrato nelle cose più belle e nelle espressioni più sentite della nostra gente. Non è un appuntamento con la tica villotta, cioè con il canto più raccolto delle nostre tradizioni, ma pur lo stesso diviene un incontro con qualcosa di nostro, come se ci trovassimo con una persona amata della nostra famiglia. Con questo concetto, il Festival di Pradamano, senza ripudiare nulla della nostra parlata, ha presentato quest'anno le nuove canzoni che giovani cantanti dilettanti hanno interpretato e che oggi ripetono per voi, gentili radioascoltatori. Con l'orchestra friulana della canzone diretta da Franco Russo saranno eseguiti i seguenti motivi: Ocianti Ocianti di Guido Michelutti e Claudio Nogliani nell'interpretazione di Gianna Lapaine, Cumò Cumò di Romano Donato, canta Albionte Tessarin, La Fortune di Guido Michelutti e Virginio Feruglio nell'esecuzione di Gianna Lapaine, Tornin a Fevelà di Lucia Scozziero e Sandro Cimiotti e cantata da Galdino Turco. Ed infine Copari Bortul di Lucia Scozziero e Pina Carminati, interpretata da Luisa Casali. Io non sai c'è che sedi che mi toce di cianta cal se nul cal provi a sedi senza un cianti io non questa. Non te mai la muse dure, né coi miei né con gli obei. Non te mai la muse dure, né coi miei né con gli obei. E o cianti, o cianti, o cianti, dut mi invide al bel cianta. Soresere ai lapi vide, ma pri ben o sai ama. Se qual ven qualche fastidi, io cianti e lui alva. Si può ben buttare il ridì, così sa si contenta. Non sei triste, non sei brutte, tanti srobis o sai fa. Non sei viele, non sei frutte, perci no hai o di cianta. Non te mai la muse dure, né coi miei né con gli oben. Non te mai la muse dure, né coi miei né con gli oben. Se può al ven qualche fastidi, io cianti e lui alva. Si può ben mutare il ridì, così sa si contenta, così sa si contenta. Sto con me, il mio cuor l'ha fatto in ton, mandi mame o cor con ie, o ven cumò, o ven parvi si sì, o ven cumò, paradì. L'ere tanche ti spietavi, ti cialavi di scrivere. L'ere tanco ecco ti spiavi ritirati in ton cianto. Ove ti cialavi di scuro, l'ere tanco ti spiavi ritirati in ton cianto. Ti cialavi di scuro, l'ere tanco ti spiavi ritirati in ton cianto. O ven con la pomò, o ven pare di sì, o ven con la pomò, pare di nome a te. Paradita nome a te. L'han passata il mi plaseve, del fruttata il zuffo in fur, e cumò che non mi garbe, lui mi corse in frida ur. Noi se viene che ste naine che fa nome Matea, in che smonte è curiose, o sin dubbi che il pare, la fortuna è un'estrose, c'è chi sul non si può vedere. Al volpat che zalla sfloce, sta sotto il folk la trae, dal viatte vanti trote, e non può ciapale mai. Une volte non mi lave che il vigiù dalla spizzata, poi che so innamorata e cui sa la cale imbusata. In che smonte è curiose, o sin dubbi che il pare, la fortuna è un'estrose, c'è chi sul non si può ve. Une volte non mi lave che il la spizzata, vuoi che so innamorata e cui sa la cale imbusata. In che smonte è curiose, o sin dubbi che il pare, la fortuna è un'estrose, c'è chi sul non si può ve. C'è chi sul non si può ve. Che la memorose si inrabbie, io sul momento fa sfinte di nie, ma dopo doi tre di so scunì, e in cur la gelosie mi ti abbepì. E io pintù dal mio petià. La cirpa ridut l'anvie come un danà. Se mai la più si svante il mio dolore, non sai parecchio, non vi senza die. Ti prei venca per me a fedelà, tu la melù. Sei il mio splendore, o vuoi zurra, non ti farai rabbia, ti prei venga, torni a fedelà. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.